as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, di nuovo qui ad Il Pane e Rose. Oggi parleremo chiaramente dello sciopero del 28, sciopero generale indetto dall'USB e gli altri sindacati di base. Siamo stati a Bologna, io ho scioperato, così come ha detto Paolo, i comunisti veri, gli operai comunisti veri fanno tutti gli scioperi, eppure non appartenendo a questi sindacali, chi mi conosce bene sa che sigla sindacale appartengo, ho scioperato, perché sono anche un operaio comunista e gli scioperi li fa tutti quando può, ma che sempre riesco, certe volte faccio anche io fatica a farli proprio tutti, però scioperi importanti, quelli che si condividono, come questo che hanno organizzato contro la finanziaria, contro questo governo che sta cercando di attuare, lo sta facendo, un'economia di guerra, sta portando tutta la nazione verso un sistema economico tra un po' basato sul riarmo, basato sui soldi ad incentivare le nuove guerre. Questo chiaramente sarebbe sbagliato anche se avessimo i soldi per il welfare, sarebbe sbagliato anche se avessimo i soldi per le scuole, se avessimo i soldi per la riconversione ambientale, ma non ce li abbiamo nemmeno. E dunque è ancora più sbagliato investire sulle armi, investire sulla guerra e sul riarmo. Insomma, adesso ascolteremo un pezzo che è un inno, è il nostro inno, e soprattutto in questo momento. Poi ascolteremo Federico Sera dell'USB, un compagno, un delegato dell'USB, che era lì presente, un caro amico, e poi sentiremo Betty dell'SGB. Ci sentiremo anche per le conclusioni, alla fine. Allora, siamo qui alla manifestazione del sciopero generale del 28 indetta dall'USB, sindacato di base, siamo con Federico Serra. Ciao a tutti e a tutte. Siamo qua in piazza, come altre 50 piazze di tutta Italia, contro la finanziaria di guerra. Impone il riarmo, impone le logiche bellicistiche, mentre abbiamo bisogno di fondi per aumentare i salari, per fermare il caro vita calmierando i prezzi e per investire sulla sanità pubblica, il diritto a casa e all'istruzione, ad oggi fuori dall'agenda politica del governo. Ovviamente siamo anche in piazza contro la guerra e quindi in solidarietà alla resistenza palestinese, per chiedere di fermare qualsiasi rapporto politico, militare e economico col governo genocida dello Stato di Israele. Vogliamo un modello di sviluppo economico che restituisca pace e progresso sociale. Ci sono molte crisi industriali e non sarà la riconversione bellica a salvare il mondo del lavoro e a tutelare l'ambiente. Abbiamo bisogno di una riconversione che parli di giustizia sociale, di giustizia ambientale e che produca lavoro di qualità che non sia dentro la filiera bellica. Domani ci sarà la manifestazione di Roma. Domani manifestazione nazionale contro il governo Meloni in solidarietà alla Palestina. Hanno aderito tantissime realtà sociali e politiche per ricordare che c'è un blocco sociale, un pezzo di mondo del lavoro, degli studenti, dei disoccupati e pensionati che ha un'altra visione del mondo e si oppone al governo Meloni, alle logiche di riarmo e non delega alle finte opposizioni la battaglia contro questo governo. Abbiamo bisogno di un modello di sviluppo diverso, perché in questi anni, gli ultimi 30 anni, abbiamo visto governi di diverso colore, ma il pilota automatico del riarmo, della precarietà e dell'austerità e dello sfruttamento è andato avanti. Abbiamo bisogno di riportare le priorità del mondo del lavoro. Oggi i lavoratori si lamentano perché fondamentalmente questa legge di bilancio è stata devastante per loro, dai soldi ai ricchi e non ai poveri. Assolutamente, nella piattaforma riportiamo la necessità costituzionale di una progressività fiscale reale. Ad oggi si restituisce piccoli benefit a chi più ha. Noi abbiamo bisogno di il sostegno ai pensionati, ai lavoratori subordinati che oggi non riescono ad arrivare alla fine del mese. Bisogna ritornare a una progressività fiscale e ovviamente a tassare gli extra profitti delle banche e di tutte le agenzie che col caro bollette in questi anni hanno fatturato e fatto profitto sulla pelle di lavoratori e lavoratrici per via del caro vita. Grazie mille Federico. Grazie a tutti e a tutte. Siamo sempre qui alla manifestazione dell'UFB, del sciopero generale, finalmente un vero operaio comunista, questo lo devo dire. Ciao, che dire, siamo qui di nuovo in sciopero, dopo la continuazione del 22 settembre e del 3 ottobre, che sono stati scioperi molto grandi e molto, con un'adesione molto forte. Peccato che comunque la CGIL non abbia ancora capito la lezione dello sciopero del venerdì prima del 22 settembre, perché anche oggi ci sono due scioperi separati che dividono la classe dei lavoratori, lo sciopero di oggi e lo sciopero del 12 dicembre. Ovvio che noi comunisti, operai comunisti, li facciamo tutti e due, però comunque la classe è divisa. Io sono un operaio metalmeccanico, lavoro alla Tita fino all'Emilia e penso che anche il nostro contratto appena siglato sia un contratto un po' bidone, ma questa cosa non è tanto la firma, è già la piattaforma in partenza, perché comunque era una piattaforma che non difendeva il lavoro precario, era una piattaforma che punta sui soldi, che poi non sono neanche tanti, ma la questione del diritto al lavoro non è stata presa in considerazione, con 48 mesi di somministrati, 12 mesi di contratti a termine con causali non di picco produttivo, e quindi quando si persiste con un nuovo contratto, si persiste nella precarietà, vuol dire che si persiste anche nella non sicurezza al lavoro, perché la maggior parte della sicurezza sul lavoro è molto legata all'operaio ricattato, all'operaio senza diritti, e l'operaio precario è un operaio comunque che non ha gli stessi diritti degli altri, perché delle volte è costretto ad accettare condizioni di lavoro non in sicurezza per farsi riconfermare il contratto. Finché avremo i precari saremo sempre in condizioni non di diritto sul lavoro e ci saranno sempre più pericoli, e poi dopo non ci meravigliamo che ci sono 3 morti al giorno sul lavoro. Sono contratti bidone per questo motivo qua, non tanto per il salario, perché il salario bene o male ci serve, quello è una cosa scontata, il salario, si deve lavorare per il salario, si deve combattere per il salario tutte le volte, la lotta economica è giusto che venga fatta, però è abbandonata la lotta al diritto, cioè oggi si assume con un licenziamento già in tasca, e questa qui è una cosa che precarizza tutti, i nuovi, i giovani, ma anche gli studenti che saranno laureati, tutti, perché un mondo precario è un mondo senza garanzie, nessuno può comprarsi una casa, nessuno può comprarsi una macchina, nessuno può investire niente sulla vita, e quindi è solo una povertà che si precarizza sempre di più e che andrà in una situazione di ricatto totale sui posti di lavoro. Grazie Paolo. Allora, ecco qui Betty di SGB, intervistiamo anche te, ti ho sentito il tuo intervento, un ottimo intervento, devo dire. Ha perso un po' la voce, però vabbè, ci sta, dai. Sì. Beh, come ho detto, questo è uno sciopero che viene da lontano, è uno sciopero preceduto da quello del 22 settembre, da quello del 3 ottobre, oggi è uno sciopero contro la finanziaria, ma contro una finanziaria di guerra. Cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, che per la prima volta, no, secondo le regole europee, il nostro governo può tranquillamente dedicare l'1,5% del PIL fuori bilancio, fuori dal parametro di bilancio, allora di Maastricht, oggi di Europe Arm, per le spese militari, cosa che a noi hanno impedito per il welfare, per la scuola, per la sanità. E ovviamente, come dire, noi lo rivendichavamo allora, oggi resistiamo a questi tentativi che sono molto più pervasivi di una volta, perché la guerra sta andando avanti molto pesantemente. Gli scioperi che abbiamo fatto fino adesso sono scioperi contro la guerra e l'economia di guerra, e anche oggi siamo qua per quello. I nostri salari non crescono da 30 anni, i tassi di inflazione sono alle stelle, perché i prodotti petroliferi e energetici in generale, a causa della guerra, sono schizzati alle stelle e alle scelte fatte dall'Unione Europea e quindi anche dal nostro governo, ma in questo pariteticamente ai partiti di opposizione al governo, su questo la pensano tutti uguali purtroppo, anche per questo ci sono due scioperi diversi in questo periodo. Noi, sindacalismo di base conflittuale oggi, e la CGIL che ha un'altra piattaforma, che è un rilancio ad esempio della concertazione, cosa contro cui noi ci battiamo, perché la concertazione ha prodotto lavoro povero e continua a produrne, quindi non si esce da questa situazione con la concertazione, si esce con la lotta, con la rivendicazione della mobilitazione per rubare pezzi di profitto e fare finire la guerra. Questo è il senso dello sciopero di oggi. Certo, però c'è anche la manovra finanziaria, insomma, cioè si dà sempre più soldi ai ricchi e esatto. Meno soldi ai lavoratori. Sì, è una finanziaria alla super ciucca, toglie ai lavoratori salariati, ai lavoratori dipendenti, ai ceti popolari per dare ai ricchi. Viene fatta una ridistribuzione parziale, diciamo, della ricchezza attraverso il sistema fiscale, che penalizza ulteriormente chi lavora in termini salariati e che i pensionati, e invece dà a chi fa profitti. Su questo non c'è dubbio alcuno. Domani c'è manifestazione, scusa, a Roma? Beh, due sono le manifestazioni in realtà, una a Roma e una a Milano. Okay. Sono due manifestazioni importanti che hanno al centro la questione palestinese, perché la questione palestinese è l'emblema purtroppo in negativo di questa terza guerra mondiale, cioè lo scontro che c'è in Medio Oriente è uno scontro per la primazia sui prodotti energetici sostanzialmente e sulla navigazione, perché come tutti sappiamo il 90% delle merci viaggia via mare e soprattutto chiaramente i prodotti energetici. Lì c'è l'avamposto dell'Occidente, che è appunto Israele, che sta compiendo un genocidio. Noi siamo solidali con i palestinesi, ma anche con la resistenza palestinese, sui quali non facciamo distinguo, come nessuno li può fare sulla nostra resistenza dei decenni passati. Grazie mille. Grazie a te. Resto nudo e manifesto e faccio un gesto. manifesto. E oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Allora, abbiamo ascoltato Federico Serra, abbiamo ascoltato il nostro compagno, poi abbiamo ascoltato Betti, segretario dell'SGB di Bologna. Voglio dire una cosa. Allora, si è affrontati argomenti cui ho anticipato nell'introduzione. Chi si fosse perso l'intervista o l'introduzione può trovarle nella pagina podcast del Pane delle Rose o nel mio profilo Facebook o nel profilo del Pane delle Rose. Ora, questo sciopero purtroppo è stato uno sciopero che ha diviso un po' la classe, perché la CGIL non ha partecipato, siamo un po' amareggiati perché il 3 è stato veramente un grande sciopero. Quello che è successo il 22 poi il 3 doveva darci una lezione. Io non do la colpa alla CGIL perché le colpe sono, io penso, di tutti, ok? Certamente in questo momento Betti ha detto una cosa precisa, ha spiegato anche in parte dicendo che le piattaforme sono diverse. La CGIL è ancora una piattaforma concertativa e loro invece hanno una piattaforma che non è tipo concertativa, e di lotta. Io penso che davanti al no al riarmo bisogna fare il fronte unico. Noi come sinistra sindacale il generale di marzo lo stiamo chiedendo, lo stiamo proponendo, soprattutto in CGIL, ma l'appello lo facciamo a tutti, nel senso che bisogna fare degli sforzi. Dopo il 3 bisognava che si creasse un percorso anche di discussione tra i dirigenti sindacali, perché tra i lavoratori c'è, quello che manca è proprio un percorso di incontro tra chi dirige dall'alto questi sindacati, sia di base che confederali. Ecco. I lavoratori ci sono, non tutti, una parte, chiaramente i lavoratori, bisogna che ci sia una spinta anche dall'alto. Dal basso oggi purtroppo tarda a venire di massa. Non è che non esiste, ma è ancora chiusa nelle fabbriche, c'è gente che si lamenta di questo, non è ancora un movimento di massa, altrimenti sarebbero stati costretti i segretari a parlarsi. Io spero che lo facciano prima possibile, perché noi stiamo andando verso veramente la terza guerra mondiale. Qua c'è il rischio che il riarmo porti alla guerra, il riarmo impoverisca comunque l'Italia e impoverisca soprattutto i lavoratori dipendenti. Ecco perché io spero che si cominciano a fare le lotte insieme, con dei punti che possono essere condivisibili, perché tutti quanti siamo contro l'economia di riarmo, e spero che si trovi una sintesi per poter rivivere i momenti del 3 e rivivere ancora migliore un movimento di massa che porti a giornate di lotte vere, non passeggiate, non scioperi di rappresentanza o scioperi piccoli, settari, o scioperi passeggiate, più che scioperi, insomma, gli scioperi di lotta combattivi di tutti i lavoratori italiani e di tutti quelli che vogliono partecipare. Deve accadere il prima possibile. Questa è la nostra speranza del Pane delle Rose. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Quartieri, mangeremo. della grande distribuzione. Questo mondo è il lavoro che ci hanno portato anni, ora è arretrato. Ha l'interesse di evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano rivendicare i propri diritti.